edizione. Un aggiornamento che arriva dal Brasile, perché allarme al largo di Rio de Janeiro per una perdita di petrolio in un giacimento, perdita di petrolio che è arrivata a 120 chilometri dalla costa brasiliana. Per controllarla sono impegnate 17 navi. Si tratta di una piattaforma petrolifera, della Chevron. La chiazza nera al momento è di 160 chilometri quadrati e la perdita è di circa 600 barili al giorno. Al momento ci ritroviamo dopo la viabilità per dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. 6, 17 minuti e 12 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia e vediamo di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Iniziamo oggi dal Corriere della Sera, il titolo è Monti, un governo fino al 2013, più avanti sentiremo anche direttamente le parole del Presidente del Consiglio incaricato che ieri si è fermato con i giornalisti. Servono sacrifici, dice, non ho mai parlato di lacrime e sangue, una sorta di retroscena da parte di Paola Di Caro che è su Berlusconi, sulla durata del nuovo governo decide il Parlamento, dice non ha senso porre limiti di tempo. E ancora, il passato che torna è un articolo a firma di Pierluigi Battista che dice la Lega di lotta rispolvera il simil Parlamento e poi regioni a confronto ancora sui temi della spesa pubblica, non tanto della casta quanto della spesa pubblica, stile lombardo per risparmiare 785 milioni, regioni a confronto è il titolo del pezzo di Sergio Rizzo e Gianantonio Stella. Titolo centrale sui mercati, con l'Europa che avverte Roma, diagnosi invariate, lo spread che risale a 500 punti e anche Unicredit, per Unicredit perdite, tagli e maxi aumento. Abbiamo una notizia di taglio basso su Obama che non esclude un'incursione sull'Iran, mentre una vicenda incredibile che arriva da Milano in un'inchiesta sull''Ndrangheta, Pavia, gli intercettati erano innocenti, così il perito trasformò contati in comprati, si parla di voti e si parla del perito che ha trascritto le intercettazioni. Il Sole 24 Ore, borse spread, torna alla tensione il titolo, Monti auspico l'ingresso dei politici ma conta l'appoggio governo fino al 2013, le firme in prima pagina di commenti sono: ora i partiti in Italia facciano la loro parte di Guido Gentili e Berlino e Parigi non scarichino i loro vizi sull'Europa di Carlo Bastasin e il punto di Stefano Folli che parla dell'errore di PDL e PD. Si parla anche, c'è un titolo anche dedicato alla Merkel, l'Europa è nella crisi peggiore del dopoguerra, dice la cancelliera tedesca, ora serve l'unione politica, e a centro pagina si parla di Unicredit via libera l'aumento e il titolo, operazione da 7 miliardi e mezzo, si parla dell'aumento di capitale, in bilancio maxi svalutazioni, un titolo dedicato anche a Bossi che non vale consultazioni e riapre il Parlamento padano. La Stampa, Monti no ad un governo a tempo, oggi ultime consultazioni, vedrà anche parti sociali, giovani e donne, sacrifici, non lacrime e sangue, come abbiamo già sentito nel giornale radio. Il titolo dell'editoriale, che è a firma del direttore Mario Calabresi, è Quei privilegi non più tollerabili. E poi si parla anche delle misure, delle possibili misure, pensioni d'anzianità cancellate dal 2015 e spunta la patrimoniale con la ricompensa. A centropagina la foto di Fiorello con il ritorno dello scione, anche di questo parleremo più avanti con la nostra Marta Cagnola, il ritorno di Fiorello nel segno di Mike, e poi anche un titolo dedicato alla tassa che arriva su Superenalotto e Gratta Vinci, un prelievo del 6% su tutte le vincite superiori ai 500 euro. Salvi i giochi online. La Repubblica, Monti, il mio governo fino al 2013, come vedete questa questione dei tempi dell'esecutivo è quella che sembra dominare le prime pagine dei quotidiani, appello ai partiti, sostenetemi o rinuncio all'incarico, sacrifici sì, non lacrime e sangue, e poi il diario della crisi è il rischio che nasca il premier di nessuno, è il titolo di Claudio, del pezzo a firma di Claudio Tito. E a centropagina un titolo dedicato ai mercati e questa vicenda curiosa raccontata da Michele Smargiassi, addio strisce pedonali, ormai sono trappole. Poi una vicenda a Torino, tiene il velo via dal tribunale. Il Messaggero, Monti no ad un governo a tempo, come vedete anche qua si conferma la linea dei principali quotidiani, vorrei ministri politici, servono sacrifici non lacrime e sangue. E il retroscena a firma di Alberto Gentili ci dà qualche elemento in più, l'ipotesi dei due Letta, il veto dei partiti, quindi avrebbe ipotizzato evidentemente l'ingresso nel governo Mario Monti di Gianni Letta e di Enrico Letta. A centropagine la borsa, giù risale lo spread, vola il rendimento dei BTP, il quotidiano che è come sapete un quotidiano romano dà ampio risalto con foto al delitto dell'Olgiata, la sentenza per il delitto dell'Olgiata, Olgiata 16 anni all'ex domestico, la rabbia del marito della contessa, ma anche ad un'altra vicenda romana che farà discutere, un nuovo caso Cucchi, titola il Messaggero, detenuto morto dopo le botte, e poi anche un titolo dedicato alla vicenda di Fiorello. Vediamo allo show di Fiorello. Veniamo a dare un'occhiata a quelli che sono i quotidiani internazionali. Iniziamo dal Financial Times che apre con la Merkel che chiede un'Unione Europea più forte per sostenere l'euro, la cancelliera tedesca chiede aiuto in quella che definisce l'ora più dura per l'Europa. Per quanto riguarda il Wall Street Journal parla di economia europea che si indebolisce con tutte le difficoltà, come si può dire, placando le speranze dei leader della zona euro, che i leader della zona euro saranno in grado di risolvere la crisi del debito, così titola il Wall Street Journal. E sempre sul tema quotidiani britannici, a partire dal Telegraph che titola sulle parole di David Cameron, il Premier dice l'Unione Europea in pericolo senza riforme, e il Guardian che invece la prende da un altro lato e delle parole di Cameron prende l'aspetto nel quale il Premier britannico dice la crisi è una chance per ripensare l'Europa. Da segnalare sia sul Telegraph che sul Guardian, ampio spazio all'arrivo di questo film in parte contestato, che è il film su Margaret Thatcher con Meryl Streep nella parte della Lady di Ferro, appunto, parte contestato anche dagli amici della Thatcher. E noi adesso andiamo negli Stati Uniti perché per chi ha seguito le vicende repubblicane nei giorni scorsi si sarà divertito, le vicende, i dibattiti repubblicani, si sarà divertito a sentire le difficoltà di Rick Perry, governatore del Texas, nel momento nel quale gli è stato chiesto, ha detto che avrebbe voluto tagliare tre ministeri e si è impappinato non ricordandosi quale fosse il terzo ministero che voleva tagliare nel pieno del dibattito, e questo, hanno detto molti osservatori, gli ha troncato le gambe nella corsa per la nomination repubblicana. Ebbene, Herman Cain, già in difficoltà per una serie di scandali sessuali, gli è ad Herman Cain ieri è successo questo. So you agreed with President Obama on Libya or not? Okay, Libya. President Obama supported the uprising, correct? Come avete sentito, non ha perfettamente chiara quale sia la posizione degli Stati Uniti sulla vicenda libica e chiede addirittura al giornalista se sia giusto, dice insomma, Obama ha supportato la rivolta in Libia, è giusto o mi sbaglio? Quindi fiaccato dagli scandali sessuali, Kane insomma potrebbe essere definitivamente terminata la corsa di Kane. Ecco, vi segnaliamo il titolo di apertura di Le Monde, almeno online, perché è interessante, insomma. Goldman Sachs, il trade union tra Mario Monti, Lucas Papademos, che è il premier designato greco, e Mario Draghi. Così la prende Le Monde. Questo è il quadro per quanto riguarda anche la stampa internazionale. Noi adesso ci prendiamo una breve pausa, ci ritroviamo tra poco con il giornale radio. Prima edizione. Sono le 6:34 minuti e 10 secondi, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. Oggi è il 15 novembre, buongiorno a tutti, da Daniele Biacchesi. È la seconda puntata del viaggio tra i cosiddetti pretaci, quei religiosi che vivono nelle periferie delle grandi metropoli e lavorano fianco a fianco degli ultimi della terra e degli emarginati. Tommazzi è un prete popolare che lavora nelle periferie di Milano e il suo obiettivo è il recupero di tossicodipendenti, alcolisti, emarginati di ogni genere. Lo ha intervistato per Italia in Controluce Giacomo Segantini. Ho avuto un'infanzia molto difficile, ho avuto un'adolescenza ancora più difficile, sono rimasto senza papà, ho sofferto la fame, o sono riuscito a studiare perché ho trovato dei preti che mi hanno mantenuto senza pagare una lira. Ho fatto la scuola media con grossissime difficoltà durante la guerra, sono stato bocciato per cattiva condotta, ho finito il liceo, dice adesso cosa faccio? A casa non potevo andare, mia mamma poverissima non aveva i soldi nemmeno per lei. Sono andato a Ferrara, alla città dei ragazzi, per dare una mano. È scoppiata l'alluvione nel 51, mi sono trovato lì con bambini di tutti i tipi, disperati, e allora ho pensato cosa fare della mia vita, povero, balordo, irregolare, quello che diremmo oggi borderline, e ho pensato che forse aiutando ragazzi più difficili di me mi sarei salvato. E allora ho mollato l'università, ho mollato il conservatorio e ho fatto il prete. E ho fatto il prete proprio di strada, dal 69 al 79 sono stato a Verona a lavorare con i disabili, soprattutto volevo che i ragazzi disabili non rimanessero chiusi nelle istituzioni totali. Allora c'era tutta la storia degli ospedali psichiatrici aperti, eccetera, eccetera. Ho cercato di lavorare per 10 anni con i ragazzi con problemi psichici e mandarli a lavorare, creando cooperative con l'obiezione di coscienza che erano nate in quel periodo. Il gruppo Exodus quando è nato e perché l'avete chiamato così? Nel 79 sono piombato a Milano, dovevo dirigere una scuola con migliaia di giovani e lì mi sono imbattuto nella droga, nel terrorismo. Il momento in cui Parco Lambro era in qualche maniera il luogo delle contraddizioni, primi aspetti molto radicali, i primi subbulli studenteschi, avvenne il primo arrivo degli acidi e delle erbe, e quindi ad un certo punto è arrivata la droga a 2 passi dal mio istituto, dal mio centro che era in via Pusiano, davanti avevo purtroppo tutto il Parco Lambro. Ad un certo punto hanno incominciato i ragazzi miei, morivano, uscivano, non venivano a scuola, le mamme disperate, purtroppo la gente fatta la trovavo la mattina nei bagni della mia scuola, e ad un certo punto verso nell'83-84 ho deciso di affrontare con serietà questo problema. Ho pensato, venendo dallo scautismo, venendo dall'oratorio, dal centro sportivo, ho pensato di mettere insieme una specie di piccolo campo mobile, come fosse un campo di scout, che anziché avere la tenda ho preso 4 camper, ho messo su questi camper i più disperati del Parco Lambro, siamo nel 1984, e ho provato per la prima volta a fare una comunità diversa, con l'avventura, l'itineranza, la notte, il teatro, lo sport. Chiamato Esodo prima di tutto perché è il libro della Bibbia che mi piace di più, perché ognuno di noi ha il suo piccolo esodo, ognuno di noi deve uscire da se stesso per migliorare, per aiutare gli altri. Era Italia il Controluce, torniamo oggi 13:30 a Radio 24. Le 6 e 38 minuti, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Dunque andiamo ad aggiornare su quel che sta succedendo nel Bresciano, dove tra poco, se tutto va bene, la speleologa che è rimasta bloccata in una grotta dovrebbe essere tirata fuori. Cristina Carpinelli, buongiorno. Buongiorno Simone. Sì, riprenderanno tra pochissimo i lavori per liberare Anna Bonini, la speleologa di 36 anni che da domenica è intrappolata in una grotta a Serle nel Bresciano. La donna domenica pomeriggio, durante una gita con altri amici, è caduta da un'altezza di 3 metri, però mentre era già a 230 metri di profondità. Nella caduta si è fratturata una gamba. Già ieri sono cominciate le operazioni per portarla fuori, operazioni rese difficili dalla frattura e dagli spazi angusti. In questo momento la speleologa è assicurata ad una barella di soccorso che viene passata di mano in mano dalle decine di volontari dei gruppi di speleologia lombardi. Una comunità molto unita, per farvi capire quanto. Ieri il medico che ha visitato la donna, anch'egli speleologo, è poi rimasto con lei per l'intera giornata e parte della notte, portandole cena e conforto. Ai giornalisti ha poi raccontato di aver trovato la donna in buono stato di salute. Chiedo scusa, ringrazio tutti, ma voglio davvero chiedere scusa per il lavoro che sto causando. Queste sono state le prime parole che Anna Bonini ha riferito al medico. Le operazioni procedono molto lentamente, diciamo, perché la barella deve essere trasportata e passata di mano in mano negli stretti cunicoli da 8 persone per volta. Durante la notte, mentre gli speleologi preparavano il percorso, Anna Bonini ha dormito qualche ora in una piccola tenda allestita per lei. Sono 70 volontari impegnati a riportare in superficie questa 36enne. Per ora è tutto. Grazie Cristina Carpinelli per questi aggiornamenti. Noi adesso cambiamo argomento e parliamo di politica e mercati. Iniziamo con gli audio della giornata di ieri e con le parole del Presidente del Consiglio incaricato, Mario Monti, innanzitutto sulla durata del governo. L'orizzonte temporale nel quale il governo che sto apprestandomi a formare si colloca è quella del periodo intercorrente tra oggi e la fine della legislatura, primavera 2013, e se venisse prefissata una data invece al di qua di quell'orizzonte temporale, bene, questa predeterminazione di durata toglierebbe credibilità all'azione del governo e è una definizione temporale che non accetterei. Così, dunque, sulla durata del governo Mario Monti, ma ha parlato anche di mercati. Agiamo in democrazia e anche questo esercizio al quale sono stato chiamato dal Presidente della Repubblica si iscrive pienamente in un tragitto democratico e parlamentare, e quindi determinati tempi sono necessari. Mi sembra assolutamente naturale che adesso occorra, anche agli occhi dei mercati, ma ripeto, prima di tutto agli occhi della collettività italiana e di tutti noi, occorra arrivare alla formazione del governo, alla definizione della compagine che vi assicuro sarà convincente ed efficace dei ministri, e all'annuncio e alla presa di misure incisive. Quindi sono sicuro che i mercati avranno una impazienza temperata con la razionalità. E ieri i mercati, come dire, non è che abbiano reagito meravigliosamente alle notizie in arrivo, naturalmente non solo dall'Italia ma anche dal resto d'Europa. Per un punto ci colleghiamo con Valeria De Rosa, anche per capire come stanno andando le cose questa mattina in Giappone e sulle borse asiatiche. Valeria, buongiorno. Buongiorno a te Simone e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, partiamo subito dalle borse asiatiche. In questo momento il Nikkei è in flessione dello 0,88% e anche le altre borse orientali non vanno molto bene. Diciamo che la pazienza ai mercati non l'hanno avuta sicuramente nella giornata di ieri. A Milano il calo è stato intorno ai 2 punti percentuali. C'è da dire che i cambiamenti sono in atto non solo in Italia, dove appunto appunto Mario Monti ha accettato con riserva l'incarico di formare questo nuovo esecutivo. In Grecia il nuovo governo Papademos è al lavoro. Il 20 novembre si terranno le elezioni anticipate in Spagna, da cui ovviamente verrà fuori il nome del successore di Zapatero. È ovvio che adesso bisogna vedere i cambiamenti che si produrranno nelle prossime settimane, per vedere un po' come reagiranno concretamente i mercati. C'è da dire che per quanto riguarda l'Italia il giudizio dell'Europa sull'economia italiana non è cambiato, la diagnosi è la stessa, le debolezze restano, ha avvertito ieri la Commissione europea. Sicuramente c'è il punto di partenza positivo, che è stato il discorso di Mario Monti, che secondo la Commissione ha lasciato ben sperare. Come giustamente dicevi tu, i problemi non sono solo italiani. Ieri lo spread è aumentato sia per quanto riguarda l'Italia, arriva sulla, ovviamente nei confronti della Germania, Bund, BTP, è arrivato a 494, chiudendo a 492, ma si è allargato anche lo spread Spagna-Germania, 434 è il massimo, e anche quello Francia-Germania, 165 punti base. Per quanto riguarda Milano c'è anche un caso particolare, che è quello di Unicredit, che ha molto pesato ieri sul listino. Ieri l'istituto di credito ha annunciato l'aumento di capitale da 7 miliardi e mezzo e soprattutto ha fatto un'operazione di pulizia molto pesante, di pulizia dei bilanci, che ha portato a svalutazioni per oltre 9 miliardi di euro. Questo sicuramente l'ha penalizzata in borsa nella giornata di ieri, ma secondo molti analisti questa è stata un'operazione positiva che comunque nei prossimi giorni premierà il titolo. Prima edizione. Se ne sta parlando molto da ieri sera, del grande evento televisivo di questo autunno, che è naturalmente lo spettacolo di Fiorello. Lo ha seguito per noi e ce lo racconta Marta Cagnola. Buongiorno Marta. Sì Simone, partiamo dal fondo. È terminato a mezzanotte 8 minuti il più grande spettacolo dopo il weekend. Intanto il Grande Fratello era ancora in pieno svolgimento. Allungare le trasmissioni a dismisura fa bene all'Auditel, perché alza gli share, ma abbiamo fatto tardissimo. Per il bilancio degli ascolti bisognerà attendere la mattinata inoltrata, potrebbero essere dati difficili per un Grande Fratello già appannato. Ma numeri a parte, parliamo di Fiorello. Un po' show di 20 anni fa, un po' attenzione al futuro con la presenza in studio degli amici di Twitter e non di Facebook, ma più avanti ancora, manca un po' il filo conduttore, ma innegabile c'è il conduttore. Soprattutto quando prende di mira la politica. Hanno aspettato proprio noi questo programma, veramente. Ad Arcole ci sono le bandane a mezz'asta, ragazzi. Le bandane a mezz'asta, 17 anni dico io, aspettato questo momento, 17 anni, al 18° anno, manco maggiorenne è diventato, incredibile, essere andato proprio così. Comunque non vi preoccupate, dai, sono passati solo 2 giorni, dai, lo sapete che quelli come lui, il terzo giorno... Non è mancata dell'ironia anche sui vertici Rai. Monti è una brava persona, ha detto lasciatemelo là, mazza, ha detto sia tranquillo. Il trolli dove sta? Qua l'ho visto il suo trolli. C'è il trolli Rai 1. C'è scritto Rai 1 così. Sai che una volta ho baciato del noce. E poi le canzoni da crooner, un accenno delle sue imitazioni più riuscite, come quella di Carla Bruni, già provata proprio su Twitter. No, no, non faccia gesti che siamo in televisione. Siete vulgarissimi. Je fais le parto alla francese. E com'è il parto alla francese? 3, 2, 1. Ah, così, ok, dai. Bene. 3, 2, 1. E come lo champagne. Sì. Infatti somiglia al papà preciso. Perché? Sa di tappo. Ah, ecco, sa di tappo. Può mancare la prima polemica? Ovviamente no. Il Kodakons ha annunciato il ricorso all'antitrust per la presenza di alcune antiche 500 Fiat, di quelle di un tempo che non ci sono più. Ed è tutto. Grazie, grazie dunque anche a Marta Cagnola per questo racconto della serata di ieri con Fiorello. Naturalmente adesso tutta l'attenzione si concentrerà sull'Auditel per vedere come sarà andata, per vedere come è andata, insomma, questo spettacolo appunto di Fiorello. Noi chiudiamo con una notizia battuta poco fa dalle agenzie e che riguarda una maxi operazione della Guardia di Finanza di Treviso, che riguarda un imponente un'imponente evasione da 49 milioni di euro, scoperta appunto dalle fiamme gialle. Sono stati denunciati 29 imprenditori, coinvolte 15 società tra Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Basilicata e Puglia, una ragnatela di società che operavano nel settore della commercializzazione di pallet, di mancali, che non hanno mai versato le imposte e che in alcuni casi sono risultate completamente sconosciute al fisco. Come sempre di evasione fiscale torneremo a parlare nel giornale radio delle 8 con la nostra rubrica dedicata Il Paese Sommerso. Io ringrazio Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione. Un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia ci risentiamo tra poco con il GR.